La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Gli risposi che aveva fatto male a disturbarsi tanto, perché ormai di sale se ne trovava anche a Monteguidi. Non era vero, naturalmente, ma doveva imparare a occuparsi un po' più di me e un po' meno di mio padre. La voce roca che quasi esce a fatica, un viso che turbò anche Pasolini, che la recensì con un dolce trasporto. La storia di oggi ha per protagonista Claudia Cardinale, che qui interpretava Mara nella Ragazza di Bube, una ragazza figlia di un tempo aspro. La cosa incredibile è che continuo a lavorare, faccio 4 film all'anno in tutti i paesi e sto sempre in viaggio, visto che ho fatto La ragazza con la valigia, sto sempre con la valigia. Lei ha citato subito forse uno dei film che più l'ha coinvolta anche ultimamente. Gli inizi, sì, perché con Jacques Perrin, Valerio Zurlini, straordinario. Infatti io a casa c'ho un quadro che mi ha regalato Valerio, che era un amante della pittura e mi ha sempre seguito dappertutto. Quel film in qualche modo la mette in contatto con una parte della sua vita, la parte in cui Claudia Cardinale diventa anche una mamma. Sì. Però anche lì cioè è stata una cosa veramente incredibile quella scena, sì, veramente. Comunque, io ho avuto la fortuna di arrivare nel momento magico del cinema italiano con i grandi, che sono stati tutti i miei maestri, in effetti. Però lei aveva un talento che ha coltivato, ha studiato molto, si è data molto da fare per non rimanere imbrigliata in un personaggio. Cioè, il mio sogno era di fare l'esploratrice e io ho rifiutato per tanto tempo di fare l'attrice. E se sono qui è perché ho rifiutato, se no forse non ci sarei se avessi detto subito di sì, perché è come un uomo, no? Quando ti corre dietro, se tu dici subito di sì, quello, se invece ti fai desiderare, sta sempre dietro. Ma lei quando ha deciso che invece sì, quella era la sua professione, che voleva farlo poi invece il lavoro dell'attrice? Ma ho voluto essere indipendente per quello che ha detto prima, perché mi era capitata una cosa molto brutta e così ho deciso di fare il cinema. E non finisce mica il cielo. La cosa molto brutta che capita a Claudia Cardinale è un fatto che purtroppo ancora oggi accade e di cui spesso molte donne sono vittime. Sarà dolore. Sempre c'è. Claudia ha 17 anni, è fidanzata con un uomo molto più grande di lei, che a un certo punto ne abuserà. Claudia resta incinta, aspetta un bambino e decide di tenerlo. Oggi Claudia Cardinale ha 74 anni, è piena di un'intensità che le parole non bastano a raccontare. È leggera, dolce, umile e coraggiosa. La sua prima volta inizia quando decide che non potrà essere esploratrice, ma attrice, perché quel bambino lei lo vuole tenere con sé e così sarà. Devi essere molto forte dentro, se no perdi la tua identità, perché si vivono parecchie vite, cioè non solo una vita, e ti devi trasformare, diventare una, l'altra, perciò è molto importante la forza interna, assolutamente. Io sono Ariete, perciò. Anch'io. Senta, io le volevo chiedere una cosa, com'è stata la prima parte della sua vita quando non era ancora attrice, quando viveva con i suoi genitori, cioè com'era Claudia da piccola? Beh, il mio vero nome è Claude perché sono nata in Tunisia e la mia prima lingua era il francese. Io ero un maschiaccio, io facevo pugni con i maschi, volevo sempre provare che la donna era più forte, ero tremenda. Non parlavo e non utilizzavo le mie corde vocali, per questo che ho questa voce molto bassa. Ero veramente, e la cosa pazzesca è stata che quando avevo 15 anni, davanti alla scuola sono arrivati due grandi registi francesi e che mi volevano parlare e me ne sono andata. E poi ho cominciato proprio con René Vautier, Scendò, Le catene d'oro, e poi con Goa, con Omar Sharif, e ero piccolina, giovane, ed ero una donna velata araba. Questo suo essere così molto, come lei stessa si è definita, selvaggia, ribelle, sì. Secondo lei da cosa nasceva? Ma non lo so, io per esempio prendevo tutte le mattine il treno per andare a Cartagine a scuola e io salivo sul treno solo quando era già partito, mai quando era fermo. Cioè una pazza proprio. Fantastico, quindi in corsa, il treno in corsa. Sempre, sempre. Simbolico anche della sua vita poi. Sì, sì, infatti. Senta, lei è stata veramente ed è ancora oggi una grandissima interprete di anche grandi registi. È riuscita a portarsi a casa anche delle lusinghe difficili da portare a casa, come quella di Pasolini che... Ah sì, fece il mio primo articolo sullo sguardo. Esatto, esatto. Come poi Moravia che ha scritto un libro su di me ai miei inizi, Alberto Moravia. Avere questa critica da Pierpaolo Pasolini per me è stato veramente un onore. Poi Moravia, io stavo a Piazza del Popolo, camminavo e ho visto un signore che si fermava e mi guardava e poi ha fatto questo libro su di me, La descrizione di un corpo nello spazio. Fantastico. Sì. Senta, un'altra domanda che le volevo fare è come è cambiata la sua vita nel momento in cui è diventata madre? Ma io ho due figli, Patrick e Claudia. No, per me è importantissimo, cioè essere madre per me è una cosa meravigliosa, anche perché mio figlio Patrick, cioè una figlia che ha la stessa età di mia figlia, sono nate quasi lo stesso mese. No, è meraviglioso. A cura di Cristina Carpinelli. Se questo scherzo lo facevi a me, ti squarciavo come un capretto. E tu chi sei? Perché mi guardi? Sono un amico. Amico d'Amedeo. Ma dove ti vedi? Eccoti qua, vicino ad Amedeo. Sì. Come ti chiami? Giuseppe. Dentro al replay, tra miliardi di altri ci sei. E non hai scia, luminosa d'auto, anche di periferia. Claudia Cardinale nasce a Tunisi il 15 aprile. La mamma e il papà la chiameranno Claude Josephine Rose. A Tunisi vive un'infanzia di ribellione e silenzi e il cinema, arrivato per caso, assieme a una gravidanza a soli 17 anni, a cambiare la vita di questa ragazzina così bella e così forte. Nel giro di poco tempo diventerà una delle attrici più importanti del cinema italiano e internazionale. Con Sofia Loren incarnerà l'ideale della bellezza mediterranea di cui gli americani parleranno per anni. Ma Claudia rifiuta di diventare una diva. Resta coi piedi a terra, gira per il mondo da sola con una valigia piccola, senza autista e senza scorta. Intanto la sua carriera si arricchisce di film d'autore, tutti i grandi maestri come Visconti, Fellini, Bolognini, Comencini, Sergio Leone, Damiano Damiani e poi i francesi. Eppure, se chiedi a Claudia Cardinale quando è stata la prima volta che la sua vita è cambiata, risponderà senza indugio così. No, è stato quello di diventare madre e per questo faccio il cinema, se no non l'avrei mai fatto. E poi la cosa più incredibile è che io... sono arrivata a 134 film e continuo a lavorare e poi continuo a viaggiare, sono appena tornata dagli Emirati Arabi e anche dal Brasile perché sono andata a presentare il film di Emanuele Oliveira, 104 anni c'ha il regista. Senta, il fatto che lei continui ad essere così richiesta in qualche modo sfata tutti quei luoghi comuni di alcune attrici, nel senso che... Sì. Eh sì, perché io non mi sono mai rifatta prima di tutto. Io detesto il lifting e tutte queste cose. E poi io lavoro soprattutto e molto con regista primo film. L'ultimo che ho fatto, l'ho fatto in America, l'ho fatto a Istanbul, l'ho fatto nel Tirolo, l'ho fatto, insomma, io lavoro molto con i giovani perché in questo momento è molto difficile per loro e io mi piace molto lavorare con loro. Lei in fondo nell'anima resta sempre quella bambina che prendeva i treni al volo anche in queste scelte, cioè assolutamente sì sì assolutamente, ma poi la cosa bella è che, cioè, io non è che c'ho, voglio dire, autisti, così io vado in giro tranquilla per strada. E la cosa bella è che la gente mi difende se qualcuno mi disturba. A Parigi, lei vive a Parigi, giusto? È da parecchio, sì, da più di 25 anni, sì, sì. Ma perché ha scelto di andare a vivere a Parigi? Ma perché? Perché a Parigi c'è molto rispetto per l'arte, per la musica, per la musica, per gli artisti. Cioè, voglio dire, e per questo poi sono venuta anche perché volevo che mia figlia, che era piccola, facesse una scuola bilingue, inglese e francese. Perciò sono venuta a Parigi e poi sono rimasta. Senta, del passato, diciamo, di quel cinema così importante, raffinato, ricercato, sì, di cui lei è stata protagonista, che cos'è che rimpiange, se rimpiange qualcosa? Beh, noi, il cinema italiano è stato un faro nel mondo, io ne ho parlato con Martin Scorsese, Coppola, Woody Allen, mi hanno sempre detto che loro si sono ispirati al cinema italiano e purtroppo non ci sono molti finanziamenti, allora per i giovani è molto difficile, però io ho avuto la fortuna di arrivare in quel momento magico, Visconti, Fellini, Bolognini, Germi, insomma tutti grandi. E poi ho continuato, non ho mai smesso. Quindi in qualche modo c'è stata una coincidenza di talenti che si è ritrovata in quell'arco di tempo? Oh. Eh sì, perché veramente, voglio dire, io ho cominciato con Monicelli, i soliti ignoti, oltretutto non parlavo neanche italiano, non capivo niente. E con Monicelli circondata da Gassman, da Totò, da Mastroianni, insomma Renato Salvatore, tutti, e io non capivo niente perché non parlavo italiano, era abbastanza divertente. Io mi batto da sempre, cerco di essere la voce della gente che non può parlare, sono ambasciatrice all'UNESCO da tanti anni, difendo la donna, la natura, poi mi occupo dell'AIDS a Avignon da tantissimi anni e poi mi occupo dei bambini del Cambogia, tanta organizzazione, sì, perché in effetti bisogna farlo, bisogna batterci. Bisogna che ognuno di noi abbia un piccolo ruolo nelle... Assolutamente, assolutamente, sì, è troppo importante. Senta, un'altra cosa che le volevo chiedere è invece che cosa le piacerebbe recitare, quale sarebbe una cosa che nella sua carriera le è mancata e vorrebbe proprio fare? No, non mi è mancato nulla, ho fatto le commedie, le tragedie, un po' tutta la letteratura italiana, ma poi quello che a me piace, cioè prima di tutto è la scrittura del copione, poi l'incontro con il regista, e a me piace trasformarmi, perché la cosa bella, e per questo dicevo prima, bisogna essere molto forti, è trasformarti davanti alla macchina da presa, essere l'altra, non quello che sei. E questa cosa qui... Per lei, così anche un po' timida probabilmente, perché se era una bambina che non parlava eccetera, sì, l'ha aiutata insomma nella vita? Ah beh, è stata la mia salvezza, perché io non parlavo e improvvisamente con il cinema è stata una cosa meravigliosa, perché ho potuto vivere tante tante tante vite e ho cominciato a aprirmi davanti allo schermo. Adesso quali sono i progetti insomma che ha in corso? E adesso vabbè, ho fatto tanti film che ancora devono uscire, come Diventare Italiano con la signora Enrica, che ho fatto con Ali Ilan, che a Istanbul, poi ho fatto un film in America con una giovanissima allieva di Werner Herzog, Nadia Stolz, poi ho fatto l'artista e il suo modello con, in Spagna, con Jean Rochefort, che non vedevo da 40 anni, con Trueba. E poi, vabbè, Gebo e l'ombra con Manuel de Oliveira, incredibile, 104 anni. Poi ho fatto Efi a Venezia, con, scritto da Emma Thompson. Poi ho fatto l'ultima fermata, che sono tornata pochi giorni fa, con Giambattista Santi. E poi ho altri film da fare, però ancora non ho le date tutte, però ho anche altri film, 3-4 film ancora. Questa è la storia di una ragazzina ribelle nata a Tunisi da genitori siciliani, una donna che ha dovuto combattere violenze e pregiudizi ed è riuscita a farcela. Oggi Claudia Cardinale si batte per difendere altre donne, è una ragazza con le rughe che quando la incontri ti entra nel cuore. La prima volta termina qui, ci ritroviamo domenica prossima alle 13, subito dopo il giornale radio. Ci trovate anche su Facebook, ci scaricate in podcast e potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Ciao a tutti, da Cristina Carpinelli.